Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Oggi è martedì 14 giugno del 2011. Voi siete con Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale Blu Radio Sera. Buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato. E da parte di Maurizio Calzavara, buonasera a tutti. Buonasera Maurizio, anche questa sera un grande appuntamento live, un appuntamento anche con la musica d'autore, un autore che è venuto a trovarci direttamente da Brescia, quindi diamo subito il benvenuto ad Alan Zamboni. Buonasera Alan. Buonasera. Buonasera e benvenuto nei nostri studi, siamo veramente felici di averti, anche perché sei un artista davvero particolare, perlomeno noi che ti abbiamo conosciuto in questi giorni prima di proporti ai nostri ascoltatori, ti abbiamo, come dire, scoperto in una maniera davvero particolare, perché la tua è una vera e propria musica d'autore, non solamente come musicista ma anche come scrittore. Sì. Sì, sì, ho intrapreso anche questa strada, dopo quella della musica e delle canzoni, anche quella dei racconti e dei romanzi. Certo, perché in questa serata presentiamo sia un libro a cui è stato abbinato un CD e poi anche quella che è una produzione fresca della quale conosciamo solo qualche nota e vedremo di approfondire in questa serata. Va bene. Come mai, Alan, questo amore, cioè presentiamo dei due lavori, uno presentiamo l'ultimo quadro di Van Gogh, questo tuo amore per Van Gogh, per la pittura, per l'arte di Van Gogh, per l'Olanda? Ma la passione proprio nasce dall'aver visto i suoi quadri dal vivo, questo è successo alcuni anni fa, quasi per caso, e lì è stato proprio un amore a prima vista, e da quel momento ho cominciato così delle ricerche, dei lavori su di lui, ho cercato di vedere altri quadri, altre opere, mi sono appassionato alla sua vita, alla sua storia di uomo e di artista, e da lì poi pian piano è nata anche l'idea del libro, e insieme ad Angel Galserano l'idea del disco interamente dedicato a lui, quindi un concept album. Esattamente, una vita che è sicuramente un lungo film dall'inizio alla fine della sua carriera artistica, non soltanto artistica, perché Van Gogh è un personaggio con tante facce, con tanti momenti, e anche con tanti autoritratti. Esattamente, dire, no? Esatto. Questo Vincent Van Gogh, che sì, ha fatto tanto parlare di sé più dopo la sua vita che non durante la sua vita, anche perché era un personaggio abbastanza schivo, e quindi diciamo si faceva, come dire, conoscere tramite le sue opere e tramite il fratello, che veniva mandato sempre in prima linea. Sì, sì, il fratello era quello che aveva il compito di vendere, ecco, sì. E che non riusciva a farlo. Ma ne ha venduto uno solo quadro? Uno, ne è stato venduto uno mentre Vincent era in vita, ha venduto un solo quadro. E in realtà poi appunto la moglie del fratello Joanna si diede da fare per molti anni, traducendo le lettere, lavorando molto appunto per promuovere il cognato, e alla fine oggi noi possiamo conoscere il Van Gogh in maniera completa, come insomma lo vediamo adesso. Certo, e poi per chi non lo conosce ancora abbastanza, un invito ad andare nel museo in Olanda, ad Amsterdam, dove c'è un museo davvero eccezionale, sì. Dove ci sono i quadri i più famosi di Van Gogh. Ci sono due grandi musei che entrambi vanno visti per gli appassionati in Olanda. Uno ovviamente il museo Van Gogh di Amsterdam, e l'altro è il Kruller-Müller Museum di Otterlo, che non è tanto distante, è sempre lì in Olanda. E l'Olanda è piccola, quindi sì. Insomma, qualche decina di chilometri si arriva un po' anche nelle altre città. E è un museo che ha dei capolavori altrettanto di livello come quello di Amsterdam, assolutamente. Bene, allora non siamo qua solo a parlare di quadri di Van Gogh, ma di quelli che sono i quadri che tu hai tracciato musicalmente, quindi direi subito, per presentare meglio ai nostri ascoltatori quella che è la musica che ci viene a proporre, Alan, direi subito di partire con un primo pezzo, partendo giusto dalla terra d'Olanda, che poi torneremo a commentare insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. sento la faccia da vecchio, è una traccia da seguire con la mano, un orecchio come un talismano che scaccia da lontano ogni vera o presunta minaccia. Quello che vedrai, un cielo lo comanda e passa qui nella terra d'Olanda. E quello che verrà è già, e può starci tutto in una tela. Il dolore è incontrare la viltà, non è un palmo che brucia per amore su una candela. Il passo che si fa, un pensiero lo comanda ed è già qui, nella terra d'Olanda. Vedrai Parigi, lo sud, il destino è una domanda fatta qui, nella terra d'Olanda. Sotto ai tuoi piedi, e tu che vedi l'arte o la vita tradita, confusa come carta consumata tra le dita. Troppo grandi per un pennello, troppo forti per una matita, ma abbastanza sicure per farla finita. E quello che verrà, il cuore lo comanda, ma è già qui, nella terra d'Olanda. Vedrai Parigi, lo sud, il destino è una domanda giunta qui, nella terra d'Olanda. Il colore straborda e ricorda che ci sono anni da lavorare. Per Dio non c'è fretta, a differenza dell'arte, lui aspetta, si scorda. Ma Vincent, un vero uomo, non dimentica e non rimanda. La tua strada è uno specchio, la faccia da vecchio è terra d'Olanda. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, siamo ampiamente entrati nella terra d'Olanda. Abbiamo ascoltato questo pezzo, ce l'ha regalato Alan Zamboni, ci sta presentando questo suo lavoro che è datato il 2010 ed è un CD abbinato a un libro che si intitola l'ultimo quadro di Van Gogh, mentre il CD si intitola semplicemente Vincent. Sì, abbiamo iniziato con questo pezzo. Sì, siamo in terra d'Olanda, ma potrebbe essere sicuramente in Irlanda o la musica celtica, decisamente il folk. Sì, abbiamo cercato di riportare, diciamo, i colori un po' dei quadri anche musicalmente. Questo brano Terra d'Olanda mi dà modo di presentare anche gli altri due musicisti che hanno preso parte al progetto, oltre a me anche al Gal Serano, che sono Gianmarco Astori, che ha scritto la musica proprio di Terra d'Olanda, e Anna Maria Di Lena, che ha cantato alcune canzoni del disco, e poi ha collaborato anche Giulio Corini, che è un contrabbassista sempre della zona di Brescia. Voce meravigliosa quella della vocalist. Assolutamente. Dà proprio il colore giusto, secondo me. Abbiamo fatto interpretare il Vincent delle lettere, e quindi ci sembrava bello che nelle lettere, perché appunto alcuni brani si intitolano proprio, sono presi dalle lettere di Vincent, e quindi ci pareva interessante l'idea di mettere una voce femminile a Vincent nelle lettere. Certo, questo, diciamo, è un romanzo che si fa leggere bene, grazie anche alla tua scrittura così, diciamo, lineare, però vogliamo dire l'ultimo quadro di Van Gogh. Allora, poi vorremmo sapere anche qual è l'ultimo quadro. Esatto, ma è una storia che mette davanti a tutti un personaggio che sta, come dire, indagando su quella che era la personalità vera di Vincent, su quello che è stato il suo ultimo quadro, quindi la sua ultima raffigurazione, diciamo, da un punto di vista dell'anima. Sì, in realtà non si sa di preciso nella realtà quale sia stato l'ultimo quadro di Vincent, però io sono partito da un buco che è all'interno della sua biografia. Lui, quando esce l'ultimo giorno, che è il giorno in cui si spara dalla locanda verso le 5 di sera, esce per andare a dipingere, ha con sé i pennelli, i colori, la tela, eccetera, e rientra in realtà dopo qualche ora ferito da un colpo di arma da fuoco. Che cosa abbia fatto in quelle ore che è rimasto fuori non si sa, nessuno l'ha mai saputo. Però nessuno indagava, nelle biografie non ho mai trovato nessuno che si chiedesse che quadro potesse aver fatto, cosa potesse aver realizzato. Non era una domanda sciocca questa, perché Vincent era molto rapido a dipingere, quindi in un paio d'ore avrebbe potuto realizzare tranquillamente un quadro. E nessuno si è mai chiesto questo, e io ho deciso di dare una risposta ovviamente di fantasia nel libro. Sì, perché resta da capire se sia stato quell'ultimo ritratto, quello coloratissimo, quel suo autoritratto che appunto è esposto ad Amsterdam, oppure se si parla di qualche girasole. No, per anni hanno creduto che fosse il campo di grano con i corvi, si è creduto quello, perché dava l'immagine comunque del destino che arriva. In realtà Vincent aveva un'idea completamente diversa di quel quadro, lo descrive anzi come un quadro che dovrebbe dare una certa serenità della vita di campagna, cosa che in realtà non dà a uno spettatore quando ce lo si trova davanti. Veramente un quadro assolutamente suggestivo e molto, molto forte, molto violento. E quindi in realtà si è pensato a quello, ma si è sicuri che non è quello. Potrebbe essere qualcun altro, ma non sappiamo quale. Potrebbe essere un quadro incompiuto che non abbiamo mai visto e che è stato da qualche parte, che qualcuno si è tenuto, chi lo sa. Esattamente. Quindi, assolutamente, c'è anche questo da dire, perché non tutti i quadri a volte saltano fuori, ma qualcuno se lo tiene gelosamente custodito. Poi all'epoca non era conosciuto da nessuno, non era famoso, quindi niente di più facile che qualcuno si possa essere tenuto una tela, sì, una tela in casa. Alcune tele, sue tele sono state ritrovate nei posti più disparati, usata come tovaglia, ma voglio dire, una è stata trovata perché che tappava, sì, il buco di un pollo. Live, ecco, quindi ancora peggio di quello che ho appena citato io. Vabbè, e quindi lasciamo anche i nostri ascoltatori cercare di capire allora qual è l'ultimo quadro di Van Gogh. Bisogna leggere il libro. Certo, bisogna leggere il libro, quindi un libro che, diciamolo subito, Alan, dove lo possiamo trovare? In tutte le librerie, un po' ordinare, comunque la distribuzione della Infinite Edizioni, che è una casa editrice di Roma, è una distribuzione nazionale, quindi dovrebbe arrivare dappertutto. Altre cose, vedevo verso il finale del libro, noi che l'abbiamo già letto, anzi ti ringraziamo per avercelo inviato, che verso la fine ringrazi anche dei filantropi, diciamo, della parte, forse degli sponsor che hanno voluto, sì, questo. C'è qualcuno che ha creduto nella realizzazione di questo lavoro, che era comunque per una casa editrice come l'Infinito, che è sì una casa editrice importante nel suo ambito, però comunque fa parte della piccola editoria. È sicuramente la possibilità di uscire a un prezzo concorrenziale, perché un disco più un libro, sono riusciti a portarlo a 15 euro, è stato anche grazie a qualcuno che ci ha dato una mano, come le cantine Olivini e la Fly Energia e Bookstop, che hanno contribuito appunto a darci un po' di fondi per poter realizzare questa opera. E questo è sempre un bene, voglio dire, soprattutto sì, per promuovere la musica adesso ci vuole sempre un soldino prima, no? per dare una giusta spinta. Cioè, lo sponsor è essenziale in questi ultimi tempi. Per riuscire a contenere quantomeno i prezzi, riuscire ad arrivare sul mercato con qualcosa che possa essere conveniente anche per un lettore, ascoltatore, certo. Insomma, portarsi a casa un qualcosa che uno ha l'idea di averli spesi bene, ecco. Tu arrivi a musicare questo libro praticamente partendo da un amore molto forte per De André, è così? Ma io sì, De André lo conosco fin da quando ero piccolo, l'ho cominciato a sentire con i dischi di vinile di mio padre, e poi per una serie di casualità della vita l'ho suonato per quasi 11 anni sui palchi, un po' per tutta Italia, e quindi è stata un piacere. L'ho suonato con un gruppo bellissimo, eravamo in 8, un gruppo che si è sciolto qualche mese fa, perché a un certo punto abbiamo deciso che era arrivato il momento di smettere, che un gruppo che era nato dalla grande passione proprio di questi musicisti di cui facevo parte per Fabrizio, e che ha continuato proprio nella tradizione del tributo, dell'omaggio, con dei concerti che mi hanno dato moltissimo, sono stati molto suggestivi. Abbiamo sempre, poi lì era molto facile avere pubblico, avere tanta gente entusiasta, perché De André è stato un intellettuale che ancora oggi manca molto. Certo. Maurizio, Alan Zamboni si è presentato questa sera anche accompagnato da alcune tastiere. Esattamente. Anzi, da alcuni tasti. Alcuni tasti. 88 per la precisione. 88 tasti. Allora cosa facciamo? Li facciamo suonare tutti insieme? No, un po' per volta. Un po' per volta. Quello che riesco, insomma. Benissimo. Cosa ci vuoi proporre tratto dal Vincent? Ma facciamo dal vivo un brano che nel disco canta Anna. E noi abbiamo fatto una cosa un po' particolare per presentare questi momenti del disco. Il disco, come dicevo, è diviso proprio da un punto di vista biografico, dal periodo olandese, poi quello francese, proprio segue la vita di Vincent, e abbiamo introdotto questi vari momenti con delle canzoni che abbiamo chiamato Lettere. E le lettere sono un esperimento molto particolare, abbiamo preso dalle lettere che scriveva Vincent a Theo, che fortunatamente ci sono rimaste, perché Theo era un collezionista di qualsiasi cosa, quindi teneva anche gli scontrini degli autobus, e fortunatamente ha tenuto anche tutte le lettere del fratello, e abbiamo scoperto che Vincent scrive benissimo. Questo me l'ha fatto scoprire anche il Galserano, che penso sia l'unica persona al mondo ad aver scoperto prima Van Gogh scrittore del Van Gogh pittore. E abbiamo fatto questo esperimento, ovviamente tradotto in italiano, modificato leggermente per la metrica, ma le parole sono sostanzialmente sue e la musica invece ce l'abbiamo messa noi. Quindi vi faccio sentire un brano che si intitola Lettera 1, noi l'abbiamo proprio chiamata per numero. Ho un grande fuoco nel cuore e nessuno si scalda vicino. I passanti non vedono che fumo di sopra un camino, e continuano sicuri nel loro cammino. Sarò sempre straniero e lontano, Teo, mi manchi, grazie dei 100 franchi e una forte stretta di mano. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccolo qua, Alan Zamboni si è appena espresso con le sue tastiere. Stiamo presentando il suo lavoro del 2010, Vincent, che è il CD tratto dal suo libro che si intitola L'ultimo quadro di Van Gogh. Proprio all'inizio, è proprio il preludio praticamente, hai cominciato ad aprire la finestra musicalmente parlando. Come l'hai inventato questo pezzo? Vabbè, è cantato da Maria, però come l'hai costruito? Ma era un tema così melodico che mi piaceva, e poi c'erano degli elementi che mi avevano sempre colpito delle sue lettere. Uno, questo in particolare, questo proprio aspetto del grande fuoco. In una sua lettera proprio lui dice che ha un grande fuoco dentro e non riesce e vede come appunto vede la gente passare a fianco, ma non... la gente non nota questo fuoco, lo dice in maniera splendida. Tra l'altro, per una serie di coincidenze curiose, Anna, poi Anna Maria di Lena, mi faceva notare che questa stessa immagine è stata adottata anche da Joni Mitchell, che è una cantante della quale Anna va veramente matta e che è anche una grande pittrice oltre che una cantante. E casualmente va proprio usato questa immagine anche lei, io non lo sapevo. E poi un'altra cosa che mi incuriosiva, mi piaceva delle lettere, era questo inizio di quasi tutte le lettere dove Vincent diceva grazie per i 50 franchi che mi hai mandato, grazie per i 100 franchi, grazie, e ringraziava sempre per i soldi ricevuti, e poi chiudeva praticamente sempre con una forte stretta di mano. Quindi era un saluto molto, molto particolare, molto suo. E ho pensato di mettere quindi tutto questo in questo che è poi il primo brano. Sì, proprio all'inizio. Quindi si partiva dal superfluo per andare verso il profondo. E insomma, lui poi non lo riteneva purtroppo no, tanto superfluo. è vero. Faceva il contabile al posto di suo fratello, praticamente. In realtà, aveva un atteggiamento molto. Faceva molta fatica a gestire i soldi. Anche per quello il fratello glieli dava col contagocce. Col contagocce. Perché altrimenti non erano ingestibili. Benissimo, Alan, ascoltiamo anche quella che è la seconda lettera, che è sempre molto legata a questa prima lettera che appena enunciato. Sì, è un'altra immagine che lui dà in un'altra lettera riguardo appunto a Dio. Dio non si può giudicare da questo mondo. È uno schizzo che gli è uscito male. Dio in fondo è una questione personale. Lo senti appieno quando dell'idea di creare non puoi più fare a meno. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Molto più breve, ma forse molto più, come dire, intensa questa seconda lettera di Vincent, fratello. Sì, noi abbiamo proprio raccolto delle piccole frasi, delle piccole cose. Le lettere non hanno la presunzione di essere delle canzoni, sono proprio delle piccole introduzioni sue che ci aiutavano proprio grazie a questa sua capacità di scrivere, dare immagini, questa immagine di Dio che non va giudicato per il mondo come gli è venuto fuori, dicendo che in fondo è solo come se fosse una prova, una sorta di una bozza, uno schizzo che per ora è uscito male. Quindi è un'immagine secondo me splendida che si inventa Vincent. Col gruppo avete già avuto questa esperienza live nel cercare di dipingere questi quadri di Van Gogh? Com'è andata? Ma bene, col gruppo abbiamo cominciato da qualche mese. Allora, nei mesi precedenti abbiamo lavorato, abbiamo messo insieme uno spettacolo dove siamo noi quattro e un video. Il video praticamente dura un'ora, tutta la durata dello spettacolo. Noi suoniamo lungo questa ora, proprio seguendo le immagini del video. Realizziamo tutto l'intero concept album dall'inizio alla fine. e con un effetto, devo dire, che abbiamo riscontrato sulla gente nelle 4-5 esibizioni che abbiamo fatto, molto, molto particolare. Non è un concerto, non è un film, non è una proiezione, è un insieme di immagini, musica e parole che si fondono a cercare anche un po' di abbattere quelle barriere che di solito si mettono tra le varie arti, no? Per cui l'immagine, la musica, eccetera. E cerchiamo di trasmettere un'emozione, l'emozione che Vincent ci ha trasmesso qui sui quadri, cerchiamo di trasmetterla con questi concerti. Diciamo, il video segue proprio i quadri, segue i film che hanno al cinema hanno appunto dato vita a Vincent, e poi parecchie immagini dei luoghi che ho ripreso io, dove lui appunto ha vissuto. Certo, c'è chi oltre al tuo CD ha criticato anche il libro, quindi qualche critico d'arte che ha visto qualcosa dentro il tuo libro. Ce lo puoi descrivere? Come l'hanno trovato i critici d'arte? Tra altre cose c'è anche una prefazione proprio fatta da un critico d'arte nel tuo... Ma c'è una prefazione, c'è una prefazione di Pablo Echaurren, che è un bravissimo, bravissimo pittore, e una postfazione di Ennio Calabria, che è un altro pittore che io non conoscevo perché sono ignorante in materia, ma che poi ho conosciuto. Tra l'altro ho avuto la fortuna anche di conoscere Ennio Calabria personalmente in una presentazione a Roma, e quindi hanno dato le loro interpretazioni, hanno dato il loro tocco, e Echaurren in un modo direi proprio pittoresco, quasi futurista, come sono certe sue espressioni, e invece Ennio Calabria in un modo che mi viene da dire filosofico, dove ha appunto ha trovato modo tramite il libro di esprimere determinati concetti, determinate cose, molto interessante, quasi un saggio quello conclusivo di Ennio Calabria. Quindi non solamente pubblico che ama la musica, ma anche pubblico che ama l'arte e che cerca di far suo questo libro per vedere un altro punto di vista di un grande artista. Sì, io parlo di Vincent, ma Vincent non è un personaggio del racconto, non compare mai, compare attraverso i suoi quadri e compare nel modo in cui possiamo conoscerlo noi oggi, cioè attraverso proprio le sue opere. E quindi è una cosa un po' particolare, un po' diversa. Io ho cercato di mantenere il maggior rispetto possibile. Chi si aspetta di trovare una biografia? No, rimane deluso. Si trova una storia attraverso la quale forse avrà un modo... Così è un'altra prospettiva per vedere Vincent. Cioè, una storia che si aggancia a determinati momenti, però non è la storia di Vincent. Però è un romanzo storico, quindi è calato, diciamo, in un ambiente reale. Il personaggio narratore è l'unico inventato, che non ha neanche un nome. Tutti gli altri invece sono realmente assolutamente esistiti. Realmente esistiti. Benissimo. Allora andiamo ad ascoltarci un altro pezzo tratto da questo Vincent, che si intitola Sur la butte de Montmartre. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sur la butte de Montmartre c'è un via vai di gente che sale, sale, non scende mai per quel che vale. Dicon di essere degli artisti, non sanno cos'è il silenzio. Li hanno visti imbriagati dall'assenzio, persi dentro le paillettes delle mura della galette, quando attacca la quadriglia. E la ballano la madre e poi la figlia, chi si lascia dopo si ripiglia, e tutta una grande famiglia attaccata alla bottiglia. C'est l'art pour l'art. Sur la butte de Montmartre avanzano con passo storto, e chi ha torto c'ha le sue buone ragioni, e guai a perder le occasioni per tenere troni e banco, e lamentarsi che non c'è più un franco nel quartiere, a ben vedere nel bicchiere. E qui non manca mai da bere, il giro lo paga il marchese, il grano glielo passano una volta al mese, mentre dal divano giapponese imbottito di laudano lui contempla un deretano. C'est l'art pour l'art. Sur la butte de Montmartre l'alba arriva di straforo, ma qualcuno è già al lavoro per i campi, oltre il chiasso, oltre il coro, oltre i lampi. E il tuono col suo passo, col suo sogno, sale, sale, sale, sale dentro a un temporale. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sur la butte de Montmartre, mi sembra proprio una canzone da cantastorie, no? Sì. Si può dire così, perché si sente un po' di cantastorie francese e poi abbinata anche ai motivetti tipici da Moulin Rouge, esatto, o dalla Folie Bergère, così. Quindi. Esattamente, il cancan proprio lì è stato ripreso in maniera, proprio una citazione diretta del cancan di Offenbach, che era nato in realtà 25 anni prima, ma che viene proprio rilanciato nei caffè concert, alla Moulin Rouge, ma anche soprattutto al Moulin della Galetta, all'epoca in cui c'era Vincent, c'era il Moulin della Galetta, e lì appunto il cancan imperversava. Lo Chahut, c'era il ballo che chiamavano. Certo, è un pezzo famosissimo all'epoca, era conosciutissimo da tutti. Sì, sì, no, io ho approfittato di questa cosa per dare innanzitutto, siamo capitati, come è evidente, nell'atmosfera parigina qua, sì. E quindi anche riprendere un po' quell'atmosfera da Toulouse-Lautrec, quindi certo. A Montmartre, per una serie, per un'alchimia strana, in quegli anni hanno vissuto tra i più grandi artisti della storia, non solo pittori, ma anche scrittori, musicisti. Era un postaccio alla periferia di Parigi dove veramente è nata e cresciuta l'arte, ha fatto la storia dell'arte in quegli anni. Non ci stiamo facendo solamente una cultura musicale, ma anche una cultura, stiamo parlando di storia, noi che ne sappiamo gran poca, vero Maurizio? La stiamo imparando esattamente anche da Alan Zamboni, che è venuto qua per presentarci ben due lavori, o anche possiamo dire tre, perché due li stiamo già combinando adesso. Quindi stiamo parlando del CD Vincent, come dipende se lo diciamo alla francese, sì. o all'olandese. L'olandese sarebbe sarebbe Vincent van Gogh, sarebbe l'espressione originale. Poi sappiamo che si strozzano quando parlano, sì, gli infatti, olandesi. Non è, viene un po' da ridere di così, quindi sì, diremo sì. Van Gogh. Diremo Van Gogh, giustamente, e poi naturalmente, visto che c'è stata anche una parte francese di Van Gogh, molti lo chiamavano anche Vincent. Esatto, lui era conosciuto come Vincent appunto perché poi gli ultimi anni li ha passati in Francia, dalla Francia non è più poi uscito, quando si è trasferito nell'86 a Parigi, ha lasciato l'Olanda per non tornarvi più. Quindi il folk all'inizio, poi la musica francese e poi qualcosa d'altro nell'insieme. Sì, la parte poi del oltre Parigi, poi c'è il periodo del Midi, del Sud, quando Vincent Amputo si reca ad Arles e successivamente a Saint-Rémy. Sono due anni importantissimi da un punto di vista della sua pittura, la sua arte esplode veramente lì con i famosi girasoli, gli iris, i grandi autoritratti di quel periodo, i due mesi passati con Gauguin nella Casa Gialla, che hanno così fatto veramente anche lì la storia dell'arte. E qui abbiamo dedicato, per quanto riguarda la Casa Gialla, un brano esclusivamente strumentale, proprio perché forse questa storia del taglio dell'orecchio, eccetera, è una cosa di cui si è parlato talmente tanto che non ho voluto parlare né nel libro né nel disco. E io ho trovato che Gianmarco Storia abbia fatto un pezzo strumentale molto molto bello, che ha rappresentato proprio la sequenza della vita di Vincent durante l'anno passato ad Arles, e poi siamo passati invece a Saint-Rémy, quindi il periodo del manicomio. Il manicomio, sì, esattamente. Visto che abbiamo parlato di Saint-Rémy, è giusto nella scaletta un brano dal vivo proprio che porta questo titolo. Sì, questo è un lavoro appunto, anche questo brano, la musica l'ha scritta anche il Gal Serrano, nel disco canta lui la parte di Vincent, fa lui la voce di Vincent, io invece faccio la parte centrale che è la voce di un matto, e quindi con un valzer completamente storto e ribaltato, i matti osservano questo pittore, questo uomo strano che è arrivato nel loro asilo. Thank you. dentro, dentro un grande imbroglio. Le stelle sono lampade, lampade a petrolio. E la notte non mi fa compagnia. Uomini piangono nell'ombra, versi senza una poesia. Guarda quel tizio, c'ha la faccia da vecchio, ma dipinge e come un bambino mi sistema il viso con la sua mano. Lo sento vicino anche se mi guarda strano, mi sistema il viso con quella mano. Lo sento vicino ma è già lontano. Qui dentro la luce sa di chiuso, la luna là fuori è un sole disilluso. Arriva, arriva, arriva al pennello dalla testa. Questo cielo limpido in una notte di tempesta. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo breve pezzo si intitola Saint Remy, lo potete trovare all'interno di questo CD allegato a questo libro, molto veloce anche da leggere se vogliamo, e anche da rileggere perché no, perché magari sfugge qualcosa, si cerca di capire qual è l'ultimo quadro di Van Gogh, ma in realtà questo non sarà mai scritto. nella realtà non è, non è scritto, nella fantasia ci si può creare delle immagini o delle, o ricreare delle emozioni per cercare magari di lasciare al lettore anche la libertà di inventarsi lui un perché di questa storia. Parlando di Saint Remy, del manicomio, Van Gogh, ricordiamo che volutamente si è lasciato internare, volutamente, è stata una sua scelta. Sì, è un tipo di, sono tre, c'erano tre forme una volta di internamento. Una di queste era proprio l'internamento, era chiamato internamento volontario. In realtà l'internamento volontario prevedeva il consenso dei familiari e la valutazione di un medico. Nel caso di Vincent fu lui, d'accordo col fratello e con un reverendo che conosceva all'epoca, che si chiamava Sal, che decise di entrare al manicomio Saint Remy. Venne visitato dal dottor Peyron, il quale decise di accoglierlo all'interno dell'asilo. Era, diciamo, un privilegiato, sì, perché aveva due stanze, poteva dipingere, quindi non era, diciamo, trattato allo stesso modo degli altri malati. E poi altrettanto spontaneamente, dopo un anno, quando si è veramente stufato, ha capito che forse lì non riusciva a curarsi, ha deciso di uscire. Il dottor Peyron ha semplicemente scritto guarito sulla cartella. Anche perché lui forse da buon artista voleva provare anche nuove emozioni, quindi anche l'emozione dell'essere trattato in maniera diversa. Ma lui era in realtà questa cosa la chiede esplicitamente in una lettera a Teo, chiede proprio perché ovviamente pagando si intende, sì, di avere due stanze, proprio perché sapeva che il fratello voleva dipingere, era il suo lavoro e quindi doveva consentirgli di farlo. Fa anche una richiesta un po' particolare, che è quella del chiede se gli si può dare ai pasti un bicchiere di vino. Cosa che inizialmente gli viene anche negata però successivamente, ovviamente, quando hanno visto che era tranquillo, gliel'hanno concesso. Certo. Vabbè, allora ci sono ancora degli spettacoli che magari i nostri ascoltatori possono venire a vedere, non so, o anche dalle nostre parti, perché no? Speriamo di riuscire a contattare qualche situazione interessante nel Veneto. È una terra che conosco poco, dove sono venuto poco spesso sia a presentare che a suonare, però verremo molto volentieri. Adesso siamo in contatto probabilmente per uno spettacolo sempre a Brescia, che sarà probabilmente i primi di settembre, in una festa della CGIL che c'è a Brescia, perché è uno spettacolo poco estivo, diciamo, questo. Salvo che non ci sia un ambiente protetto in qualche modo, un teatro, pseudoteatro. Sì, esatto, un ambiente anche all'esterno, però certo, molto, molto raccolto, ecco. Sì, perché dove non si sentono le macchine che passano. Sì, che esatto, si viene... dove la gente appunto viene proprio per ascoltare, non è una cosa dove uno non è una cosa da festa della birra, ecco. Certo, è un tipo di proposta diversa. Certo. Non hai parlato della strumentazione della band che ti segue? Ma la strumentazione è molto, molto diciamo, proprio ai minimi termini. Cerchiamo di riprodurre il disco con l'ausilio della mia tastiera, sì, e dei due chitarristi, Gianmarco Astori e Angel Galserano, che entrambi suonano appunto la chitarra, dove Angel suona proprio una chitarra classica senza nessun effetto, mentre invece Gianmarco invece utilizza la chitarra con un po' di effetti, un po' di cose, e quindi utilizziamo proprio anche i computer, eccetera. Ci sono un paio di Mac proprio sul palco, e Anna canta e usa delle percussioni, quindi in realtà la strumentazione è molto molto limitata. Abbiamo l'ausilio in un paio di brani di elementi esterni di base che ci aiutano anche a stare proprio a tempo col filmato. Poi per il resto è semplicemente eseguito in questo modo, siccome vicino al disco, vicino al disco, esattamente. Alla fine è vicino. Bene, adesso andiamo ad ascoltare un altro pezzo da questo CD Vincent, che poi ci rimanda anche al nuovo lavoro di cui parleremo più tardi, quindi ascoltiamo anche Murga de Vincent. Blu Radio Sera. Tu pensa come sempre a un anno in più. Non era giallo il colore nella mano, erano solo girasoli e gra. Oggi cammino lento e me ne vado verso corvi e campi che non rivedrò. Non volevano mangiassi i miei colori, volevano dipingersi solo fuori. Io so colorare solo vento, e tu lo sai, fratello, quel che sento. Due vite, un nome, e in mezzo all'orizzonte fiume tra due sponde, neanche un ponte. Mi son dipinto sempre e ora non va più via. Vincent, questa è la mia unica follia. E tutto qui dentro lo vedo solo io. Ti prego, Vincent, spiegalo tu a Dio. Che non è nero il colore nella mano, sono solo corvi sopra il grano. Che non è nero il colore nella mano, sono solo corvi sopra il grano. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. abbiamo sentito anche dei corvi sopra il grano in questo Murga de Vincent che mi diceva Alan fuori dalla diretta, Alan che abbiamo qui nei nostri studi di Blu Radio Veneto, che Murga è proprio questo ritmo della chitarra, un ritmo che arriva direttamente dall'Uruguay. Sì, questo me l'ha ovviamente spiegato anche Galserano, che è nato e vissuto per parecchi anni a Montevideo, e il ritmo del carnevale che fanno a Montevideo, e la murga è proprio gli uruguayani ovviamente dicono che la murga è uruguayana, gli argentini dicono che è argentina, come il tango, no? Sempre. Diciamo che è della zona del Rio della Plata, facciamo prima. Sì. E quindi da quelle parti, diciamo, si è sviluppato questa ritmica che, come spesso succede in questi casi, nasce proprio semplicemente con percussioni e voci, a quali poi si aggiungono i vari strumenti, però così come la rumba originale è percussione e voci, anche la murga. Che poi, tra le altre cose, in questa Murga de Vincent è stata ripresa anche in quello che è il tuo nuovo lavoro, invece, che si intitola Baci Sporchi. Esatto, si è rifatta in maniera completamente diversa. Dobbiamo ringraziare il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che senza di lui stasera non saresti qua. Lui volutamente ha detto è un bravo artista e abbiamo fatto benissimo. Poi ci ha fatto una dotta lezione di arte, e anche la Chiara che fa le fotografie qui presente. Quindi sta facendo i ritratti, esatto, in questo caso, no, di Alan Zamboni. A proposito di Vincent, una cosa discografica. Il brano Vincent, tu mi insegni, è stato scritto, è stato riproposto da Vecchioni, un suo arrangiamento bellissimo, un pezzo bellissimo, ma è stato riproposto molti anni prima. Il classico Vincent di Don McLean, dal famoso primo album, è stato riproposto anche in versione italiana da Little Tony. Questo non lo sapevi, la traduzione di Vincent. Molti anni fa. Lo sapevi, Flavio? No, assolutamente no. Come vedi, Ala, in questa serata, anche in questa serata, Maurizio Calzavara da sfoggio di quella che è la sua. Mi ricordavo, sai, il singolo di Little Tony di Vincent, dopo chiudo la parentesi, è rarissimo. È quasi introvabile. Eppure la traduzione italiana di Vincent l'ha scritto Little Tony tanti anni fa. Ok. Fantastico, buono a sapersi. Ero rimasto a Starry Starry Night, appunto, di Don McLean. Don McLean. E rimango lì. Insomma, che è un pezzo meraviglioso, in ogni caso. È un pezzo bellissimo, sì. Bene, allora, ritornando a proposito su Vincent, alla fine della trasmissione, quindi ci saluterai proprio con quel pezzo che eseguirai dal vivo. E andiamo adesso a scoprire una cosa, anzi, un disco che anche per noi, anche per Flavio, anche per Maurizio, è assolutamente nuovo. Certo, qualcosa abbiamo ascoltato in anteprima, anzi ti ringraziamo, però non ci è bastato. Adesso abbiamo appena levato il cellophane dal disco, abbiamo aperto il bollino della SIAE e subito siamo entrati in contatto con Baci Sporchi. Innanzitutto, Alan, come mai questo titolo, Baci Sporchi? Ma riprende in parte un titolo della seconda canzone. E mi piaceva perché è un disco dove la maggior parte delle canzoni sono riferite in qualche modo a un qualche personaggio più o meno famoso, e come se ogni canzone fosse una sorta di bacio sporcato dall'ispirazione del momento, dalla musica, dal fatto di farne una canzone. Quindi si può parlare di Charlie Chaplin come di Buster Keaton, in un modo completamente diverso, utilizzando però appunto gli strumenti musicali e le parole in un certo modo. Sì, perché qua all'interno di questo CD andiamo a scoprire che ci sono i titoli che sono state la prima cosa che salta nell'occhio, che sono davvero in forma di vari colori. Tra queste ricordo la traccia numero 7, che so se dopo andremo ad ascoltare. Se volete la meno facciamo. Che si intitola Le mutande di Zia Betty. Che davvero. E che voi non avendo io ovviamente vi ho tenuto all'oscuro di tutto questo, sì, sì. E quindi voi mi immagino cosa pensate, però in realtà no, non vorrei deludervi. No. In realtà no. È un brano molto molto cantautorale, sì. Ed racconta di tre, non so se vogliamo veramente possiamo sentire un brano di cui vado fiero. No, io ho sentito un pezzo di questo. Ah, lei è riuscito questo, a ascoltarlo. Sì, mi sono rimaste impresse la fisarmonica, il violino e il clarinetto. Ecco, bene. E infatti sono loro che dominano, sì, in questo brano. Ritrae tre momenti, i tre ipotetici momenti di una città che non esiste, ma che può essere qualsiasi città. un momento iniziale di questa città industriale che dove, dalla quale scompaiono poeti e artisti, dalla quale scompare la fantasia, l'ispirazione. E la stessa città dove questi poeti e artisti ritornano un po' sotto altra forma, perché si accorgono che c'è modo di riuscire a lavorare e a spacciarsi appunto per grandi artisti, e quindi la città cambia in un secondo momento completamente forma e diventa una città quasi rivoluzionaria, ma in realtà apparentemente rivoluzionaria, anche perché la rivoluzione, come dice la parola stessa, è un ritornare dallo stesso posto a cui si è partiti. E poi l'ultima parte è invece una sorta di democrazia che invade e pervade come una sorta di cenere che si abbatte su questa città, e dove tutto rimane perfetto, in ordine, e dove nulla si muove più. Tutto questo è riferito a si prendono due riferimenti importanti nella canzone: ciò che avviene sui muri, con le scritte sui muri, che alla fine appunto non ci sono, e soprattutto la zia Betty, questo personaggio assolutamente popolare, che indipendentemente da quello che succede in questa città, lei continua a stendere le sue mutande, a stendere i suoi panni, passano i cieli, passano i figli, passa la vita, ma alla fine insomma si capisce che forse zia Betty è quella che ha capito molto più di tanti altri quello che stava succedendo. Allora, ce l'hai raccontata così, sentiamola a questo punto. Sentiamola, sì, perché a questo punto ci hai messo una grande curiosità. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Se ne sono andati tutti quanti sulla stessa sporca barca, i navigatori e i santi, ma l'orizzonte è un miraggio e non si varca, è un ineffabile, un imprendibile gabbiano, pur restando là lontano, li trascina via da questo agglomerato urbano che tra cima di baccano, che ha sostituito il latte e il grano con camembert fermo e zafferano. Sono partiti anche i poeti con le loro miniature, e poi a ruota i cantautori, schiavi delle tablature. Come asceti son saliti, arroccati in cima alla montagna, con i versi e gli spartiti, e per spiegarli meglio il gesso e la lavagna, ci son pure attori e autori che col teatro dicono non si campa. Sono infastiditi dal silenzio, stampa sulla loro ultima pièce sperimentale un'allegorica nonché sardonica elegia del capitale. Ma gli scrittori li consolano componendo sirventesi in cui si sottolinea che i veri artisti sono i più incompresi, e i loro amori anche nei migliori casi restano sempre comunque disattesi. E tutti da là sopra sbirciano con biasimo e indignazione la pianura degradata dai consigli di amministrazione. E sui muri stava scritto: questa è una città industriale, si necessita di profitto e di gente, è più normale. Ma zia Betty è lì tra i fili, tutta intenta a stendere il bucato, vede il cielo tra le mutande e le sembra un po' scontato. Ha un futuro tra le mutande che sembra già passato. Sono rientrati alla spicciolata, chi dai monti, chi dal mare, hanno fatto i loro conti e non c'è rata e niente more da pagare, solo bionde da persi e da fumare in questa capitale dove splende finalmente un altro altare. E si sono appropriati della nuova situazione con parole altisonanti come comitati anarchici di autogestione. E mentre brindano tutti a questa nuova epifania. Stipulano accordi con la vecchia polizia per trovare di con la giusta alchimia tra i fogli di via e le foglie di Maria. E sui muri stava scritto: ora è tempo di rivoluzione, ogni uomo avrà diritto a cultura e formazione. Ma zia Betty continua imperterrita a stendere il bucato, vede i figli tra le mutande e le sembra tutto già passato. Si è sposata tra le mutande e ha un futuro un po' scontato. Ora i tempi sono cambiati, la chiama democrazia, questo gioco delle parti, questa strana pulizia, tutto in ordine, tutto a posto. La notizia è solo quella, i SUV sono davanti ai fitness come in una passerella. Ma qui più ti guardi in giro, più tutto è un carnevale, che le maschere sono mille, mille, chi è senza è un antisociale. Sembra in scialuppe di salvataggio, queste truppe all'arrembaggio, con ciambelle per chiunque e ciambellani per i più cristiani. E sui muri non ci sono più gli slogan comunisti, li han passati prima al bianco, poi ai consigli per gli acquisti. Ma zia Betty è sempre lì tra le mutande a stendere il bucato, non si è accorta che oggi piove, o forse non ci ha mai badato. Sa che prima o poi si asciuga come tutto quello che è passato. Sa che prima o poi asciuga come tutto quello che ha scontato. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E così ci siamo levati lo sfizio, abbiamo ascoltato anche le mutande di zia Betty, stiamo piacevolmente conversando con Alan Zamboni, questa volta per la seconda parte della trasmissione, quindi per la presentazione anche dell'ultimissimo suo lavoro, si intitola Baci Sporchi, è proprio uscito nei primi giorni di giugno e noi siamo tra i primi a commentarlo. I primi, diciamo. I primi, me lo dico già. Perfetto. I primi. E quindi molte grazie che ci stai regalando, diciamo, questa anteprima. Allora, questo Baci Sporchi, abbiamo ricordato da cosa viene il titolo, e ci sono molti personaggi importanti e non importanti all'interno dei titoli, quindi ricordiamo c'è anche Charlie Chaplin tra i titoli, poi ancora c'è un'altra attrice magari alla propria maniera, quindi Anita Blonde, stiamo parlando di una porno star giustamente, esatto, poi ancora di Cheryl Chessman, che è, se non sbaglio, il figlio di Hayley Chessman, esatto, al quale hai dedicato questa canzone. Poi c'è stata una storia non proprio divertente, quella di Chessman. No. Ecco, assolutamente, per chi la conosce poi magari citeremo anche. Poi ancora c'è un altro atto distensivo: stasera esco con Scarlett Johansson, che ricordiamo è l'attrice di Lost in Translation, poi ancora dell'uomo che sussurrava i cavalli, esattamente, un po' di tempo fa. e anche di Match Point, direi, e anche di Match Point, uno dei dei film più belli di Woody Allen, anche di Scoop, perché un altro, e anche di Cristina Barcellona, insomma. Woody Allen ha fatto tre film con lei e poi lei ha recitato in tantissimi, ha cominciato a recitare che era proprio una bambina, aveva dieci anni e ha registrato con Genitori Cerca, sì, mi sembra, no? Qualcosa. Poi se non so che appunto l'uomo che sussurrava i cavalli è stato quello che poi le ha dato il successo, Redford mi sembra l'avesse chiamata, non ricordo male. Lì è quel pezzo è un divertissement, chiaramente è una cosa un po' particolare. E poi ultimo, ma non ultimo, anche un riferimento a Buster Keaton. Ti avrei chiesto a quale Keaton facevi riferimento, in realtà avevo già capito che, parlando di comico in principio, quindi parlando con Chaplin malato, questa volta è il Keaton che ha rotto i freni sulla macchina del tempo, quindi un titolo cortissimo, difficile da mettere nei bordello della SIA, questo, però vabbè, pazienza. Musicalmente, come lo possiamo definire questo disco? Ha dei riferimenti jazzati, però è molto cioè questo è un jazz molto all'acqua di rose in questo pezzo, molto delicato, molto accattivante, non era un jazz presente, pesante. No, è un lavoro. Allora, gli arrangiamenti innanzitutto sono di Oscar Del Barba, che suona il pianoforte e la fisarmonica. Esatto, ed è un maestro di anche di conservatorio, appunto jazz, e che ha questa capacità straordinaria, secondo me, di utilizzare gli strumenti in modo moderno. Io proprio volutamente gli ho detto che volevo un lavoro con gli strumenti popolari, quindi gli strumenti che ci sono in questo disco sono il clarinetto, il violino, la fisarmonica, la batteria, il basso, la chitarra, quindi gli strumenti proprio più popolari anche della tradizione delle nostre terre. E lui li sa far parlare, li sa utilizzare in modo proprio molto così nuovo, particolare, moderno, anche perché ha una conoscenza comunque armonica molto, molto ampia, che si rifà sicuramente al mondo del jazz, ma anche al mondo della musica latina e della musica popolare che lui ha esplorato in questi anni. Vorrei ricordare in particolare i musicisti che hanno lavorato a questo progetto, perché sono comunque per me un vanto. E alla chitarra c'è Peo Alfonsi, al contrabbasso, che tra l'altro abita a Verona, quindi comunque sì, vicino alle vostre terre, al contrabbasso c'è Giulio Corini, appunto Oscar Del Barba alla fisarmonica e al pianoforte, alla batteria c'è Riccardo Biancoli, al violino c'è Vincenzo Albini e Guido Bombardieri che suona il clarinetto. Esattamente. Quindi tutti comunque jazzisti, per esempio, i musicisti sono tutti proprio dalla... Sì, ma sono jazzisti che non danno proprio jazz, il peso del jazz, c'è molto più musica popolare almeno in questo pezzo. Sì, sì, sì, abbiamo cercato di mantenere anche delle sonorità simili per tutto il disco e ritrovare anche certi aspetti un po' particolari proprio della musica popolare. In certi brani si respirano anche delle atmosfere un po' manouche, quindi delle ritmiche un po' balcaniche o anche del blues in certi momenti. Che poi è molto bella questa esperienza anche tra i vari artisti jazz che fanno un'amalgama, poi costruiscono nuovi gruppi proprio per la ricerca loro stessa di sempre nuove sonorità jazz. Sì, il suono, personalmente mi piace proprio il suono di questo disco, mi piace come, perché il suono è quello appunto di questi strumenti caldi, molto naturali, molto popolari, acustici, con degli arrangiamenti comunque così, che non scadono mai, secondo me, nella banalità. E come dicevo prima, appunto, tu ricordavi tutti i vari personaggi che popolano questo disco. L'idea proprio del disco è quella di passare passando da Chaplin fino a Keaton, è proprio l'idea di passare dal romantico verso il surreale. Io ho cercato di portare proprio i brani, quelli più romantici all'inizio, e poi andando verso i brani sempre più surreali, perché secondo me Chaplin è un genio proprio è l'immagine del romantico, e Keaton è l'immagine proprio del surreale. Allora andiamo ad ascoltarci ancora qualcosa dal tuo disco. Ditemi voi. Sì, avevamo citato prima il figlio Chessman, di Haley Chessman. Sì, okay. E allora lo proponiamo, poi torniamo a commentare. Ne parliamo, ok. Insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Scatola di numeri dice che il mondo finirà, la storia sa, si narra che la storia sappia, che abbia color seppia. È una scatola di numeri in cui ce n'è uno solo, la mia distanza dalla morte, dal chiederle perdono, perdono, perdono. Perdono gli alberi, 100 foglie intorno, i vecchi che le contano hanno gli anni lunghi un giorno. E io vi faccio rabbia, ho i giorni lunghi anni, alla festa dell'inferno mi vesto da Bugs Bunny. Sette volte sera su questo mio destino, lo chiamano giustiziere il mio assassino. E sette volte giorno quando la passo liscia, è sempre aperto un conto alla rovescia. Ogni giorno mi racconto due colori in più del cielo. La mente va, si dice che la mente vada, che vada dalla strada. Mezza è questa notte, svuotata dai miei passi. 10 giorni all'alba di una fine presa a sassi, a sassi, a sassi. Io assassino non lo sono stato mai. Ho una somma degli addendi falsa come i marinai. E come il paradiso imparo ad aspettare. Alla corte di Satana ho bisogno del giullare. Puoi uccidere per rabbia, paura o per follia, ma uccidere per legge è ipocrisia. Non servono verità, menzogne o delazioni, qui si contano i secondi e i metri alle stagioni. Quando imparerete a leggere, non a dettare solamente, scoprirete che il figlio di Haley Chessman è morto dignitosamente. Che il figlio di Haley Chessman è morto dignitosamente. Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati un altro pezzo da Baci Sporchi. Questa volta toccava il figlio di Haley Chessman. Questo jazz sul filo del paranoico per raccontare questa storia, la storia appunto del figlio di Haley Chessman. Sì, il Caryl Chessman è stato un simbolo degli anni 60 contro la pena di morte. Era stato un uomo condannato appunto a morire dalla legge americana, che alla fine dopo tanti anni, dopo tanti rinvii è riuscita a giustiziarlo, almeno sono stati ben 8 rinvii in caso. Sono stati tantissimi, soprattutto anche sul filo di lana veramente. Anzi, anche quando è stato ucciso, che forse era la parola più giusta rispetto a giustiziato, anche quando è stato ucciso è stato proprio proprio una questione di minuti, che è arrivata proprio il minuto dopo anche una carta che diceva che andava ancora rivisto il suo caso, ma ormai era troppo tardi, lui era già nella stanza della camera a gas. E a me aveva colpito in particolare un'intervista che aveva fatto i giorni prima appunto della sua morte Dominique Lapierre, che ha pubblicato in un libro, e mi aveva colpito questo caso, questo fatto. Chessman in realtà poi non era certo uno stinco di santo, però era sostanzialmente un ladro da auto e poco altro. E la cosa interessante era che spesso era finito in questo brutto giro di furti, eccetera, per cercare di trovare i soldi, perché sua madre aveva una brutta malattia che la costringeva sulla sedia a rotelle, e lui aveva cercato appunto di trovare il denaro facilmente per poter fare un'operazione che sembrava potesse poi restituire la possibilità alla madre di camminare. Venne invece incastrato in una storia di violenza, di stupro e praticamente di... Sì, lui venne accusato dalla polizia di uno stupro, ma anche di aver praticamente portato le donne in un'altra macchina per stuprarle. Quindi in sostanza c'è stato un sequestro di persona. All'epoca in California, se tu facevi sequestro di persona non eri condannato a morte, se stupravi non eri condannato a morte, ma le due cose insieme e portavano alla pena di condanna a morte. Quindi la cosa paradossale era che se lui avesse stuprato nella sua macchina, lui che poi tra l'altro non c'entrava nulla con questo, l'avesse fatto nella sua macchina non sarebbe stato condannato a morte, ma nella macchina, cioè insomma a seconda del posto dove lo faceva, era una cosa veramente ridicola. Ma lui, certo. La cosa affascinante è che lui è arrivato in carcere, ha cominciato a studiare legge e si è difeso proprio scoprendo lui i vari cavilli della legge americana, e per tanti anni è riuscito sempre insomma e poi è diventato anche scrittore, oltre sì, che ha scritto dei libri, esattamente, ha scritto dei libri, sì. E quindi è stato seguito anche durante appunto tutti i processi grazie proprio anche alle sue scritture, che quindi davano curiosità in un certo senso all'esterno, e quindi è stato uno diciamo dei pionieri per cui poi sono nate le varie associazioni per difendere. È un simbolo, sì, è un simbolo contro la pena di morte. In questo pezzo musicalmente dobbiamo sottolineare il grandissimo lavoro di Guido Bombardieri al clarinetto, ha fatto una cosa meravigliosa, una jam session nel pezzo stesso praticamente. Sì, è il pezzo forse musicalmente più difficile secondo me da suonare del disco. Bene, allora approfittiamo ancora delle tastiere di Alan Zamboni, che è venuto qua a trovarci questa sera, per presentarci ancora qualcosa da Baci Sporchi. No, questo qui in realtà vi faccio... No, da Baci Sporchi farei una fatica terribile, perché con tutti quegli strumenti... Avessi messo una canzone con solo piano, giuro che ve la farei, ma in realtà... Sì. No, recupero un brano da mio vecchio lavoro, un brano a cui sono particolarmente affezionato. E sentito il profilo bionda è un po' un brano da titoli di coda. In realtà noi ci abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo più di un quarto d'ora, però cominciamo a creare l'atmosfera per i saluti, per i saluti, sì. Per i saluti. Sentito il profilo bionda, e questo è anche sul disco, è fatto con solo il piano. Mi parlerai del sole, del cielo, dell'autunno che promette sempre male, dei tuoi pensieri incerti sotto mucchi di parole che sembrano tanti giganti. Mi spoglierai del cuore, ridendo occulterai con la tua bocca anche l'amore, e come sempre sarà il vento a battere le ore che resteranno solo in questo volo. Ma io voglio vivere fino in fondo i finali, e bruciarti l'anima e il canto, aprirti le ali. Vuoi ballar con me? Stanotte il mio teatro, l'affondo, il mito, il fango, è l'orchestra del mondo che suona il mio ultimo tango. Vuoi ballar con me? Domani i miei ricordi annegheranno soli nella luce dei tuoi sguardi, e per il mio cappello giallo sarà sempre tardi, calerà su un futuro più scuro, e un sorriso come schermo aiutarmi a nasconderti quel mio cuore infermo, e come sempre sarà sempre questo vento eterno a soffiare vicino al destino. Ma all'apice di questo abisso ci sono io, col bicchiere alzato alla luna che sembro Dio. Vuoi bere con me? Ma io voglio un poster del mondo in scala 1 a 1, e invitarti a casa mia se vuoi veder qualcuno e ballar con te. Mi parlerai del sole, del cielo, dell'autunno, di una vita più normale, e come sempre sarà sempre vento a farmi male. E come sempre sarà sempre vento a farmi male. E come sempre sarà sempre. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un'altra piacevolissima canzone di Alan Zamboni. Ricordiamo che prima dei due lavori che stiamo presentando durante la serata, Alan Zamboni è stato protagonista negli anni scorsi anche con altri due CD. Ricordiamo Mise Nabim e poi ancora Hirandolita Goupil. Da quale abbiamo preso? Da Hirandolita Goupil. la Mirandolita, Girandolita Goupil, che sarebbe la girandolina, si sì, può esatto, dire, la girandolina, no? Esattamente. E rispetto a quei lavori precedenti, Alan, questo ultimo, c'è qualche filo conduttore che li lega, oppure un'altra, una evoluzione completa, un allontanamento dai primi due lavori che hai fatto, escludendo chiaramente quello dedicato a Van Gogh? Sì. Ma rimane, diciamo, forse uno dei pochi elementi che li lega è proprio l'arrangiatore Oscar Del Barba, che ha lavorato tutti e tre questi dischi. Dopodiché ha lavorato in maniera molto diversa, quindi sento l'ultimo disco, ovviamente l'impronta del mio modo di scrivere c'è come negli altri certo, due, certo, quindi i cambi di ritmo, le frasi, i giochi di parole piuttosto che altri elementi, però musicalmente lo trovo diverso. In particolare quest'ultimo è stato costruito proprio volutamente con una band che ha suonato praticamente insieme in studio, quindi un live assoluto, è una sorta di live, sì, perché mi sembrava che avesse, per questo tipo di brani, per questo tipo di ritmiche, ci fosse più groove nel suonarli insieme, quindi non hanno suonato sul click i musicisti, non ci sono state tante sovrapposizioni, la base ha suonato tutti insieme, quindi si partiva con un click fuori e poi si andava senza avere più nessun riferimento, se non quello proprio della batteria dei musicisti che suonavano. Benissimo, quindi c'è un modo diverso, sempre sì. con l'arrangiatore dei primi due album, però con un'altra prospettiva, quello sì. Sì, un modo diverso proprio anche di suonarli. Chiaramente. Bene, allora adesso, visto che il tempo stringe, ma vorremmo sentire ancora qualcosa dal disco Baci Sporchi, allora direi di inserire anche la traccia che parlava dell'altra bionda, no? Di Scarlett Johansson, con questo Stasera esco con Scarlett Johansson. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mi sto preparando, suona il cellulare, è un vecchio amico che mi vuole parlare, ma io non ho tempo, gli dico mi spiace, eufemismo che sta per lasciami in pace, ho un appuntamento, direi più un incanto, scusa ma stasera esco con Scarlett Johansson. Ecco il video. Amico allo specchio con aria disinvolta, provando quello sguardo che ci ho visto già un'altra volta. Prendo il bastone, spolvero il cilindro, fa molto savoir-faire. Saremo questa notte Ginger Roger e Fred Astaire. Mi vesto e penso Scarlett, metto un maglione rosso per far pandan col nome che lei si porta sempre addosso. What a good idea. Un tocco di profumo sul collo e nei calzini e via col mio tabarro che fa sempre un po' Fellini. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Ça dépend du quartier, évidemment. Ti aspetto con ansia, puntuale alle 9. Come d'accordo dentro a questo cine. Per l'occasione ho rimpiazzato i popcorn con delle più discrete mentine. Si spengono le luci, io sono seduto e fermo. Passano due minuti e arrivi tu dallo schermo. Coupe de théâtre. Ti vedo bidimensionale in questo primo piano, c'è un naso di 2 metri che compete con Cirano. Ma quanto sei bella davvero che ti manca, sei tu la nuova stella, dai tacchi la carnagione, io direi tu, nanana bianca. E avete tutti faccia al vento nei piani sequenza. Freddo, pioggia, mai che vi becchiate un'influenza. Ma un'allergia, catarro, raffreddori, un po' di gola arsa. In pellicola stai bene o muori o peggio, sei una comparsa. Forse qui Galileo direbbe sembra ferma eppur si muove. Aggiungerebbe certamente che nei film quando piove, piove, piove. Scusa se talvolta ti sembro poco serio, ma nel mio sogno viaggia un tram chiamato desiderio. Ora è rimasta la luce sulle poltrone ormai vuote. Una maschera mi fa segno di uscire. Non c'è più tempo per chi si illude. Scarlett, scusami tanto, ma qui dico che come ogni sera si chiude. Ma là fuori è tutto irreale, è tutto a grandezza naturale. E ogni volta che arriva il vento c'è sempre un buon parabrezza. Scarlett, nei cinema e nella vita di sicurezza c'è solo l'uscita. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E così abbiamo imparato anche come ci dobbiamo preparare per incontrare questa Scarlett Johansson. No, tutto è nato da un elemento molto, molto importante. Una cosa che succede a moltissimi cantautori, che una volta lo leggevo anche anni fa, che lo diceva Capossela, diceva: io prima scrivo le canzoni e poi le cose succedono. Sono un autore, diceva, pre-biografico, cioè prima le scrivo e poi succedono. Io lo storico del giorno prima. Esatto, anche sì. A me succedeva sempre così. Allora ho scritto stasera, esco con Scarlett Johansson, sperando che, che questo, poi ovviamente la cosa nella canzone è scaduta in questo gioco col fatto appunto di andare ad incontrarla al cinema, ma ovviamente lei è sullo schermo e quindi questa... Questo, il gioco della canzone sta tutto ovviamente lì, ma certo, magari mandale un CD. Un CD, no, avere l'indirizzo, io vado anche a portarglielo direttamente. che sforzi che stiamo facendo in questa serata. Comunque, Alan Zamboni per Baci Sporchi, stiamo pian pianino visualizzando questi che sono degli altri quadri proprio che ci sta regalando Alan. Purtroppo il tempo stringe, siamo a 7 minuti dalla fine della trasmissione. Chissà se riusciamo a rubare qualche minuto allo speaker della programmazione successiva. Penso di sì, però direi che allora potremo già ascoltarci anche un'ultima traccia dal disco, che è quella dal titolo lunghissimo che tu dicevi prima aveva avuto dei problemi con la SIAE. Esatto, Keaton ha rotto i freni sulla macchina del tempo. Allora ce l'ascoltiamo, poi torniamo a commentarla rapidamente, perché poi Alan ci vuole deliziare con un ultimo brano dal vivo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. O vento, lo sento, ma cento. 28 figli e vergini ho dato a questo artista, che pur senza gli occhiali suonò coi buona vista. Quando dal circo Tony fu licenziato in tronco e sostituito da un giocoliere mongo, che pur senza una mano faceva cose strane. Non si giocava come lui ai dadi le puttane, e anche se era polacco odiava le mazzurche, con quell'unica mano faceva cose turche. E tu, musicista, son 20 anni che suoni e non ti fanno entrare. Ma dopo 20 anni che suoni, musicista prova a bussare. E poi, musicista, stai a tempo, spingi e non ti fanno entrare. Ma dopo una vita che spingi, musicista, prova a tirare. E il whisky nei dischi di Stravinsky. Sono strade strane, straniere di Stravento, e stravaccati i bordi, i miei figli sono 150, ma la luna 47, il sole uno fa 20 al minuto in un albergo ad ora. Un altro fa il chirurgo e quando è preso male ti tiene buono il cuore, mette un corpo artificiale. Il suo gemello è Keaton ed ha detto agli alieni alla macchina del tempo ed è rimasto senza piedi. E tu, musicista, non guardare, e dentro continua a suonare. La musica è fatta di battute, se non le capisci non ti lamentare. E poi, musicista, con quella matita continua a scrivere. La musica è fatta di battute, mesdames et messieurs, si deve ridere. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Madame e Messie, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Abbiamo sentito anche l'ultimo pezzo. Keaton ha rotto i freni sulla macchina del tempo. Un titolo che praticamente è il testo della canzone, oserei dire. No, ho detto i testi sempre lunghissimi, come avete notato. Sì, sì. Lunghissimi e particolari, perché poi gli ascoltatori che vorranno sapere qualcosa di più sul disco di Alan Zamboni troveranno anche nuove sorprese. A proposito, dove troviamo il disco e dove troviamo soprattutto altre informazioni che non abbiamo detto finora? Per quanto riguarda i concerti, le date, io sto portando, cioè, da settembre comincerò a portare in giro questo lavoro in duo con un chitarrista, con Gianmarco Astori, dove eseguiremo molti dei brani di Baci Sporchi e alcuni brani anche degli altri miei dischi. Quindi uno spettacolo molto particolare, con proprio quasi teatrale, chitarra e voce. Per questi brani di Baci Sporchi, secondo me, si adattano molto anche proprio, sono brani storia, quindi si adattano anche a un atteggiamento proprio teatrale sul palco. E per quanto riguarda informazioni riguardo ai concerti, c'è ovviamente, io come quasi tutti ormai praticamente abbiamo il MySpace, quindi MySpace, basta cercare Alan Zamboni e lì si trovano tutte le varie informazioni. E per chi fosse interessato ovviamente ad avere il disco, io ho una mia mail che è alanzambo@hotmail.com, che è anche riportata comunque su MySpace, quindi o anche su Facebook c'è anche una pagina anche che riguarda questo disco, dove ci sono tutte le informazioni per eventualmente procurarselo e le eventuali date che ci sono per venirci a sentire. Anche semplicemente da Google basta, sì, citare Alan Zamboni, sicuramente trovate, qualcosa di suo. Poi ormai, sì, oggi quasi tutti MySpace o Facebook, sì, o qualcosa, insomma, in qualche maniera mettendo il mio nome su Google si arriva, un po' di cose saltano fuori. Benissimo. Allora ringraziamo Alan Zamboni per essere stato qui con noi. Abbiamo conosciuto Alan Zamboni come scrittore, anche come musicista, come cantante, molte facce di uno stesso artista. Ti ringraziamo per essere venuto e per aver partecipato alla nostra trasmissione. Grazie mille a voi. Anche come esperto d'arte. Anche come esperto d'arte, assolutamente. Però, come ci avevi promesso sin dal principio, vogliamo chiudere con un qualcosa che riguarda sempre il tuo Vincent. Esatto, chiudo con un brano che è quello che chiude anche il disco dedicato a lui. Allora, ancora una volta ti ringraziamo. Io e Maurizio salutiamo i nostri ascoltatori e ti lasciamo con i microfoni tutti per i nostri ascoltatori, quelli di Blu Radio Veneto. Tutto intorno sono quadri, quadri da perderci la testa, consumarci la ragione per metà e quel che resta. Quel che resta è un tratto spesso, spesso come l'onda del mare, è il mondo messo tutto lì dentro a naufragare. Vincent, come il sole risplende tra i colori di campo e del fieno, tra i cipressi di notte discendi in un cielo sereno, dove stelle arrotano luci e le barche cercano un molo, lune feroci confondono la vita col volo. E il caffè di notte per un pittore è una fornace in cui precipita. Devi sentire il vento sul cuore se lo vuoi raccontare. E le barche sul Rodano come la gente. Arriva il giorno e trovano un molo. Vincent, come il sole risplendi, ma come il sole sei solo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Spot. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti dal lunedì al venerdì con Pubblico e Privato, incontri con persone